tu lo sai di essere preda degli errori tuoi, non puoi più vivere. Hai paura anche con me di poter perdere. Io che ho fatto tutto ormai per farmi credere. Bugiardi noi, bugiardi chi? Tu bestemmi e non lo sai. Sai, è più difficile. Tu non hai pagato mai